Occhio, regà. Il cammino di Gigi D'Agostino. Ma che sta a fare? Ma che stiamo a giocare qua? Cercate di persuadere una persona arrabbiata a cambiare il suo stato d'animo. Potrebbe avere un diavolo per capello, non nel mio caso. Potrebbe avere un diavolo per capello anche senza un motivo reale. Se invece la sua irritazione deriva effettivamente da un problema, e fermo restante che la stia esprimendo. Che cazzo. Rifacciamo. Per l'appunto il cammino e lo suona Gigi D'Agostino. 24 aprile 2006. Alle ore 22, perché io comincio a suonare molto presto. Ore 22. Gigi D'Agostino, alla discoteca Roncaccio. Roncaccio. Via Milano 19, Bizzarrone. Se non vieni sei un coglione. Provincia di Como. Sparo al

quando sta sta frequenza. La cosa, accento la radio su M2O. Ascoltare Gigi D'Agostino. Accento la radio su M2O. Gigi D'Agostino. La sua musica prende vita. Accento la radio su M2O. Ascoltare Gigi D'Agostino. Accento la radio su M2O. Gigi D'Agostino. La sua musica prende vita. Fratello, dimmi sì. Dimmi. Se ti chiamo fratello, ti chiami zio, non è che ci... Vai fratello. Non ci torna molto. Come si intitola questo brano qui? Angel, l'artista Gigi D'Agostino. Di 24 aprile 2006, ore 22, Gigi D'Agostino, alla discoteca Roncaccio. Niente, allora ci vediamo lì.

puntata strapuntata, non mi faccio stare in trada. C'è già sotto il mio tassista, sono Gigi il folclorista. Non ti vedi la testa, sto cammino resta qua. Ma se vuoi che io ritorni, tu fai bravo tutti i giorni. Ogni giorno io ti aspetto, sono Gigi, l'ho già detto. Mo la sigla ma sfumare, perché devo respirare.